Linee d'ombra di Matteo Caccia. Era un amore indistruttibile, uno di quelli che non si fa piegare dagli eventi. Lei ha cercato appunto qualsiasi modo per ritrovare suo marito. Ci salutiamo senza convenevoli e ognuno prosegue la propria attività. Recuperare delle provette io, salvare il marito lei. Storie di tentativi estremi e di ultime lettere, in una puntata che si intitola Amori incondizionati. Signorina Elizabeth, ho lottato invano e non c'è rimedio. Questi mesi trascorsi sono stati un tormento. Sono venuto a Rosings con lo scopo di vedervi, dovevo vedervi. Ho lottato contro la mia volontà, le aspettative della mia famiglia, l'inferiorità delle vostre origini, il mio rango e patrimonio, tutte cose che voglio dimenticare e chiedervi di mettere fine alla mia agonia. Non capisco. Vi amo. Con grande ardore. Vi prego, concedetemi la vostra mano. È preso da Orgoglio e Pregiudizio questo estratto di film, in uno dei momenti topici del film, in cui i due finalmente si dichiarano, e anche se si dichiarano un po' male, insomma non si capiscono subito i due, come accade nei grandi amori, quelli in cui ci si capisce con lentezza, e alla fine quando ci si capisce è un tripudio di amore e di gioia. Perché la puntata di oggi si intitola Amori incondizionati. A me capita, quando mi chiedono di spiegare o di raccontare quello che faccio in qualsiasi contesto, da un gruppo di amici in famiglia oppure a un incontro in cui si parla di storie, di narrazione, eccetera eccetera, mi capita sempre di dire che le storie, quando ci arrivano, si dividono in categorie, perché la domanda è sempre: ma che storie ti arrivano? E tu dici, quello che chi ascolta questo programma sa, storie di ogni tipo. In questo caso storie che hanno a che fare con una linea d'ombra, cioè con una linea di passaggio, con un confine, ma che possono riguardare qualunque arco della vita di una persona, per cui sono storie di viaggio, storie di infanzia, storie di malattia o di guarigione, storie di vacanza, e poi arriva sempre la nota un po' dolente delle storie d'amore, perché in effetti la sensazione in questi anni, non solo in questa stagione, ma in questi anni di lavoro con le storie, è proprio questa, cioè che le storie d'amore che arrivano sono tutte quelle che riguardano direttamente le persone che ce le raccontano, sono di due tipologie: o di amori traditi, cioè di amori che sembrano pulsare ed essere vivi ma che sono tradimenti, oppure di amori che sono finiti male. Altrimenti arrivano storie d'amore che riguardano i genitori, che riguardano i nonni, e quelle invece sono tutte per lo più storie idilliache, se parlano d'amore ovviamente, storie di questi amori che sono dei modelli, sono degli esempi, e che quindi poi ti fanno cadere malamente, perché se i tuoi genitori, i tuoi nonni si sono amati così tanto in maniera così perfetta, tu che cosa puoi fare? Questa puntata smentisce totalmente tutte le mie idee pregresse riguardo alle storie d'amore, perché sono storie d'amore che ci vengono raccontate nel primo caso da un osservatore, da una persona che incontra una signora e si trova davanti all'amore di questa donna. La seconda storia invece è la storia di una donna che scrive una lettera, o meglio, neanche una lettera, scrive un profilo per uno di quei social network che servono per incontrare l'anima gemella. Non lo fa per sé, però lo fa per il marito, ma non vi racconto altro, vi dirò solo che arriva da quella rubrica meravigliosa del New York Times che si intitola Modern Love, amore moderno, che è diventato anche un libro pubblicato in Italia da Rizzoli, e lì trovate questa e molte altre bellissime storie, alcune delle quali probabilmente vi racconteremo, perché sono davvero storie d'amore che finalmente sfuggono alla definizione di cui vi dicevo poco fa. Linee d'ombra racconta queste storie e ne racconta altre, racconta storie di confine. Se avete voglia di mandarci la vostra storia che dica qualcosa di voi e che abbia a che fare con un passaggio, lineedombra@radio24.it, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Altrimenti sapete cosa fate? Vi mettete comodi che noi cominciamo. Benvenuti a Linee d'ombra. Non sono un fumatore, ma ben nascosto in un cassetto ho un pacchetto di sigarette che mi concedo solo quando ho raggiunto una soglia che sfocia in due sole emozioni, una grande rabbia o una profonda mestizia. Oggi la sigaretta bruciava intensamente e veloce, il fumo mi colpiva. Dal balcone guardavo quei rivoli di vita quotidiana del mio quartiere, le rare auto, i rumori di famiglia nelle case, qualche battibecco, qualche risata, i primi suoni di cucina. A metà sigaretta mi sono bloccato. Pensavo ancora a quella donna che stamattina mi ha travolto con il suo amore disperato. Lavoro in un ospedale in una delle città più colpite dall'emergenza Covid-19. Sono un tecnico di laboratorio nella banca del sangue. Sto vivendo questo periodo in modo anomalo rispetto alla maggior parte delle persone. La mia routine non è stata interrotta. Ho contatti umani con il variegato mondo degli operatori sanitari. Trovo anche il momento di essere sereno e ilare. Non ho avuto la preoccupazione per i miei cari. Abitano in un paesino piccolo e isolato, a poche decine di chilometri da me. Non li vedo da settimane, ma sono attenti e in salute. In poche parole, sto vivendo una quarantena da privilegiato, con tutte le limitazioni degli obblighi di legge, ma con una serie di concessioni che in molti vorrebbero. L'ho realizzato concretamente stamattina, dietro una porta a vetri smerigliati che blocca l'ingresso al mio laboratorio. Bardato con la mia divisa bianca e azzurra, colori celestiali che mal si abbinano al contesto limbico che si apre appena oltre la porta della mia struttura, sto uscendo per andare a recuperare le provette allo smistamento prelievi. Sono inserito nel settore del centro trasfusionale, per cui mi occupo sostanzialmente di sangue. Seguo il sangue dei donatori dall'ingresso all'uscita, quindi tutto quanto riguarda la sua lavorazione e validazione e soprattutto l'assegnazione per interventi chirurgici o per pazienti che hanno necessità di trasfusioni le più varie. Attraverso quei vetri biancastri che limitano la vista, scorgo la sagoma di una persona che intenta capire come si possa entrare nella banca. Fa alcuni passi incerti, osserva il citofono, tentenna, poi in modo lento, indeciso e sconfitto, se ne va nella direzione opposta. Esco e la vedo ancora lì, di schiena. Ho imparato a riconoscere la mimica dei passi di chi vorrebbe chiedere, ma teme un posto spiacevole come un nosocomio. «Signora, ha bisogno?» chiedo. In quel momento inizia a guardarmi una donna che mi verrebbe da definire male in arnese, nell'aspetto e nell'animo. Magra, pallida, in abiti scuri. Vissuta, stanca, ma tuttavia fiera e composta. Ha colto nella mia banale richiesta una possibile via di fuga, come se avesse scavalcato una cinta che le sembrava troppo alta. «Forse lei mi può aiutare», dice con forzato entusiasmo. «Se posso, volentieri», rispondo. La mia risposta formale voleva anticipare a me stesso che non avrei potuto esserle d'aiuto. Inizia con una voce ferma, un discorso preparato nella mente che non avrebbe ammesso interruzioni. «Voglio donare il plasma a mio marito», mi dice. Ci siamo ammalati insieme e io mi sono ripresa mentre lui è ancora grave nel padiglione esterno. Non migliora e non lo stanno aiutando a sufficienza. So che è partita la sperimentazione con l'infusione del plasma delle persone guarite e io voglio dare il mio a mio marito, altrimenti nessuno si prenderà cura di lui. Abbiamo lo stesso gruppo, siamo compatibili. Quale risposta burocratica, legislativa, medica o tecnica poteva reggere quel disperato atto d'amore? A day, a brighter day, when quale impedimento sensato potevo dare a quello spiraglio di vita, a quel tentativo modesto ma forte e dignitoso di salvare la persona con cui hai condiviso tutta la tua vita? Riordino le idee in testa per poter essere il più cortese possibile, ma so che devo farmi scudo con dei protocolli che non permettono quello che lei chiede. La legge italiana non prevede che si possa scegliere l'utente finale della donazione del proprio sangue, in quanto atto gratuito, generoso, consapevole e soprattutto disinteressato. Si deve tutelare poi anche la salute del donatore, rispettando i suoi limiti fisici e di età. La donna che avevo davanti a me era oltre quei limiti, soprattutto per un invecchiamento repentino che deve averla colta in questo periodo di malattia e di attesa. Resta la speranza della deroga al protocollo sperimentale che magari io, chi lo sa, non conosco. Ho espresso questi concetti con cortese distacco e tono professionale, quando invece l'istinto era quello di accarezzarla. L'ho invitata ad entrare e le ho indicato lo studio del primario. Magari lui può quel che non si può, formulo nel mio utopico pensiero. Ci salutiamo senza convenevoli e ognuno poi prosegue per la propria attività. Recuperare delle provette io, salvare il marito lei. Io non sapevo quali fossero le condizioni effettive del paziente, del marito di questa signora, e quindi non sapevo se potesse rientrare o meno nel protocollo di applicazione della terapia. Però ecco, mi aveva particolarmente colpito l'aspra forza con cui chiedeva a questa signora l'applicazione del protocollo, però ecco, dopo lì si sarebbe rimessa la cosa in mano ai medici e non mi ero fatto un'idea. Il fatto che fosse venuta lei a chiedergli sua spontaneità mi aveva già fatto pensare un po' in una risposta negativa, perché se non l'avevano proposto già come terapia i medici che avevano in cura il marito, mi faceva pensare che appunto non ci fossero possibilità di recupero. Rientro dopo pochi minuti e chiedo ad un collaboratore se avesse visto quella signora. La sta ricevendo il primario, mi dicono. Chissà, penso. Qualche tempo dopo il primario passa dalla mia postazione per firmare dei referti. So che non dovrei, ma chiedo. Vorrei credere nell'epilogo positivo. Si sarebbe potuto fare, in qualche modo. Lei non era così anziana come avrei pensato vedendola, mi dice, ma le condizioni del marito non lo permettono. Impotenza. Un pesante senso di impotenza. Mi è diventato difficile essere consono al clima un po' garrulo che aleggiava in quel momento tra i colleghi. Quanto sono diventate sgradevoli le azioni meccaniche che stavo compiendo quando sapevo che era stata dichiarata certa una sentenza di morte, o peggio, di distacco perpetuo. Io sono disamorato, nel senso che non ho una persona per cui nutro una passione forte. Forse non sono mai stato realmente innamorato o non ne ho mai colto l'essenza. Tuttavia, oggi penso di averne visto uno dei significati più reali, ovvero quando l'amore è ancora disinteressato, inossidabile, disperato, amaro. Sentivo che questo incontro andava messo nero su bianco, senza un reale motivo. È stato come finire quella mezza sigaretta che ho lasciato lì, sul davanzale. Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo d'una sigaretta. Questa è una di quelle storie che quando arrivano, noi diciamo, forse un po' cinicamente, ti fanno un'intera stagione. Cioè, è una di quelle storie che quando una persona, un ascoltatore l'ha sentita, poi ti incontra, mi incontra 2 mesi, 6 mesi dopo, 1 anno dopo o anche di più e mi dice: io mi ricordo quella puntata lì in cui hai raccontato quella storia. Ecco, anche perché sono grato a Nicolò, perché noi facciamo, come sapete, un programma fatto delle vostre storie, e quando le storie sono così dense di cose e di vita e sono tra l'altro così attaccate alla realtà, perché è una storia che è accaduta pochi mesi fa in un contesto che ormai conosciamo molto bene, che è l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che in parte stiamo ancora vivendo, da cui si spera lentamente si stia uscendo, ed è appunto, ripeto, il motivo per cui lo ringrazio molto. Pronto, ciao Nicolò, buongiorno. Ciao Matteo, eccomi. Senti, buongiorno. Nicolò, innanzitutto, questa storia risale al mese di marzo-aprile, immagino. Mi sembra sì, a metà aprile. Senti, mi dici tu esattamente che cosa fai? Cioè, sei un tecnico di laboratorio, quindi la tua giornata, tipo oggi cosa hai fatto, per capire? Oggi mi sono occupato del sangue dei donatori, il sangue dei donatori che viene raccolto nei nostri centri e che viene consegnato all'interno dell'ospedale e poi deve essere preparato appunto per poi essere somministrato ai pazienti che ne hanno bisogno. Perché col plasma si fanno un sacco di cose. Sì, esatto. Allora, innanzitutto l'alleato primario nelle condizioni dove ci sono dei traumi molto gravi, per incidenti stradali o perdite, certo, di sangue molto importanti. e dall'altra parte può essere considerato come un vero e proprio farmaco, dal momento che contiene immunoglobuline, cioè ovvero anticorpi, i fattori della coagulazione, e quindi c'è anche una componente che deve essere utilizzata e processata all'interno delle case farmaceutiche per poter ricavare questi fattori che poi vengono riutilizzati in ospedale. Senti Nicolò, facendola breve, so che non è facile, Sì. per quanto riguarda il Covid, come veniva utilizzato il plasma? C'era una cura legata proprio al plasma? Allora, appunto quel protocollo di cui si è parlato molto in televisione, sui giornali, era il plasma dei soggetti che avevano contratto la malattia e che erano sopravvissuti ed erano guariti, per cui era necessario verificare quanti anticorpi avevano sviluppato nei confronti di questo agente patogeno, e poi dopo veniva fatta una somministrazione del plasma nei pazienti che erano in condizioni un po' particolari, che potevano avere necessità appunto di questo supporto. Chiarissimo. Senti, veniamo invece alla storia, che è una storia struggente perché tu la racconti in maniera molto nitida. Noi vediamo proprio quella signora e vediamo tutta la sua enorme generosità dettata all'amore. Ma noi, perlomeno io, vedo anche un'altra cosa. Vedo una persona che immagino sia molto emotiva e che cerca di farsi in qualche modo schermo della propria professionalità, perché altrimenti non ce la farebbe a tornare a casa tutti i giorni. Dico, be dico bene. Sì, è stato anche un po' il motivo per cui ho scelto questo tipo di professione, perché preferisco essere utile pur lavorando dietro le quinte per i pazienti. Nicolò, hai più visto quella signora? Allora, non ne sono certo, ma mi è sembrato di averla incrociata una volta in un corridoio dell'ospedale, proprio nei pressi della chiesa, della cappellina interna, però non lo so, a me sembrava lei. E ovviamente non sappiamo niente nemmeno del marito, perché a parte che sono No, informazioni, purtroppo no. immagino, appunto, Sì, private, quindi. sono informazioni sensibili, e tra l'altro anche per rispettare la privacy della signora non le avevo chiesto il nome e il cognome, e già il fatto di averle solo chiesto anche l'età per sapere se fosse idonea o meno alla donazione di sangue, perché anche quello è un requisito, mi sembrava di invadere Certo, troppo, di essere certo. scortese Hai nei suoi confronti. giustamente fatto un passo indietro. Nicolò, senti, voglio chiederti un'ultima cosa che riguarda proprio questo periodo. Tu Sì. come perché tu dici proprio serenamente, io l'ho vissuto bene questo momento. Facevo il mio lavoro, è un lavoro che mi piace, la mia famiglia stava era sicura. Tu come hai vissuto la retorica degli applausi dalle finestre per il personale sanitario, la retorica spesso dei politici o dei giornalisti, nel senso che il tema dell'essere eroi, che è un tema che è facile tirare fuori e spesso è proprio facile da utilizzare ed è facile dimenticarsene, è una cosa che per voi che fate e avete fatto quei lavori lì in quel periodo, è una cosa, come dire, che vi ha dato fastidio o in qualche modo dice, vabbè, almeno quantomeno ci si ricorda di noi, almeno in questi frangenti? Allora, ti dico una cosa Vabbè, lo difficile. chiedo a te, non facciamone una questione generale, lo No, chiedo no, direttamente a certo. te, a Allora, Nicolò. per quanto mi riguarda, è una questione un po' marginale, perché appunto io non lavoro direttamente a contatto con i pazienti. Ok, E quindi ok, ok, ok. no, per chi invece era in prima linea, probabilmente è stata una cosa che ha anche un po' ferito in realtà. Forse ecco, questo riconoscimento, soprattutto sullo stress che causa un tipo di lavoro del genere, dovrebbe essere un pochino più costante nel Più tempo. Sì, certo, più quotidiano. esatto. Credo che sia una cosa di cui si accorgono personalmente le persone che si trovano ad avere a che fare con un ospedale o col personale sanitario quando un familiare, un amico ha un Sì. problema. Lì, spesso e volentieri uno quando torna a casa la sera, in cuor suo, se non l'ha fatto personalmente, ringrazia le persone che lavorano in quei posti. Quindi, al di là di ogni retorica, io lo faccio ancora a te, a nome di tutti gli ascoltatori di Linea d'Ombra e nei confronti di tutti quelli che hanno fatto e che fanno questo lavoro. Grazie. Nicola, ti ringrazio molto per il garbo con cui ci hai raccontato questa storia e anche per la tua emotività nascosta. Grazie Grazie mille. Matteo, grazie a voi e alla vostra A trasmissione. presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille. Quando sei qui con me, questa stanza non ha parecchi Ecco, la storia di Nicolò sono proprio di quelle storie che ti rimangono addosso, che ti rimangono addosso quando le racconti e quando le ascolti e ovviamente quando le hai vissute. Ringraziamo quindi Nicolò per avercela raccontata, per averla messa nero su bianco, come dice lui, nella sua storia stessa. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare di linee d'ombra, di confini da attraversare, qui, ovviamente, a Linee d'ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Linee d'ombra. Se siete emotivamente fragili, forse non è il caso che ascoltiate la prossima storia. La prossima storia è una lettera d'amore. È una lettera d'amore che racconta una storia struggente e luminosissima, fatta di quella luce che solo i grandi amori riescono a irradiare. L'abbiamo messa insieme alla storia che ci ha raccontata Nicolò proprio per questo motivo, perché sono storie diverse, storie d'amore e storie di vita che hanno entrambe quella forza. Sono storie che spesso illuminano anche quelli che non sono così luminosi. L'abbiamo letta su un bellissimo libro, si chiama Modern Love, pubblicato in Italia da Rizzoli. È un libro che contiene alcune tra le storie più belle della famosa rubrica del New York Times che si chiama proprio Modern Love. Questa è una storia scritta da Amy Krause Rosenthal. Parla di lei, parla di suo marito, ma come fanno le grandi storie, parlano un pochettino di tutti. State con noi. È un po' che provo a scrivere queste righe, ma la morfina e la mancanza di un gustoso cheeseburger mi prosciugano le energie e interferiscono con quello che resta della mia capacità di mettere in fila le parole. In più, i micro pisolini a intermittenza in cui piombo a metà frase non permettono al lavoro di progredire con la rapidità che vorrei, però devo ammettere che mi fanno fare dei bei viaggetti. Comunque sia, mi ci devo mettere d'impegno perché si avvicina la scadenza che in questo caso è assai pressante. Ho bisogno di dire ciò che sto per dire e di dirlo bene finché ho A. la vostra attenzione e B. ancora polso. Da 26 anni sono sposata con l'uomo più straordinario che ci sia. Avevo in mente di passarne con lui almeno altri 26. La volete sentire una barzelletta di cattivo gusto? Marito e moglie arrivano al pronto soccorso nel tardo pomeriggio del 5 settembre 2015. Diverse ore e diversi esami dopo, il dottore spiega che il dolore insolito che la moglie avverte al fianco destro non è, come si pensava, una banale appendicite, bensì un tumore alle ovaie. Mentre i due tornano a casa, nelle prime ore del mattino del 6 di settembre, obnubilati dallo shock, si rendono conto che quel giorno, il giorno in cui loro scoprivano cosa covava nell'aria, è lo stesso giorno in cui finalmente avrebbero potuto smettere di badare al nido. La minore dei loro tre figli se n'è appena andata per cominciare l'università. Mille progetti svaniti all'istante. Niente più viaggio in Sudafrica con mio marito e i miei genitori. Nessun motivo ormai per fare domanda per la Loeb Fellowship di Harvard. Niente tour da sogno dell'Asia con mia madre. Niente più soggiorni in meravigliose residenze per scrittori in India, a Vancouver, a Jakarta. Che sfiga quando la parola cancro non c'entra niente con l'oroscopo. A quel punto nella mia testa è scattato il piano B. Ovvero esserci. Dovevo essere soltanto nel presente. Per quanto riguarda il futuro, invece, permettetemi di presentarvi il protagonista di questa storia, il signor Jason Brian Rosenthal. È facilissimo innamorarsi di lui. Io ci sono riuscita in un giorno solo. Ora vi spiego meglio. Il migliore amico di mio padre, sin dai tempi della scuola, lo zio John, conosceva entrambi da sempre, ma io e Jason non ci eravamo mai incontrati. Mi ero trasferita ad est per l'università e poi in California per il mio primo lavoro e quando sono tornata a casa, a Chicago, John, che pensava che io e Jason fossimo fatte l'uno per l'altro, ha organizzato un appuntamento al buio. Era il 1989, avevamo soltanto 24 anni, ma quando Jason ha bussato alla porta della casetta in cui vivevo all'epoca, ho pensato «Ehi, ma guarda che faccia simpatica che ha questo!». A fine cena avevo già capito che volevo sposarlo. E Jason l'ha capito un anno dopo. Non sono mai stata su Tinder, su Bumble o su Harmony, ma adesso creerò qui un profilo per lui, per Jason, in base alla mia esperienza di vita in comune con lui, durata una cosa come 9.490 giorni. Primo i fondamentali. Altezza 1,78 m, peso 72 kg, capelli brizzolati, occhi nocciola, ed ecco un elenco di caratteristiche che non segue alcun ordine particolare, perché ai miei occhi, in un modo o nell'altro, è tutto molto importante. Si veste da Dio. I nostri figli maschi, Justin e Miles, due giovani adulti, spesso prendono in prestito i suoi abiti. Se la nostra casa potesse parlare, aggiungerebbe che Jason ha una manualità fuori dal comune. Riguardo al cibo, mamma mia che cuoco che è. Jason adora la musica dal vivo. Andare ai concerti è la nostra attività preferita da fare insieme. Quando lavoravo al mio primo libro autobiografico, evidenziavo le parti che la mia editor voleva approfondissi. Vorrei saperne di più su questo personaggio, mi scriveva. Ero d'accordo, naturalmente. Era un personaggio affascinante. Era lui. Jason undressed me. È un padre assolutamente meraviglioso. Chiedetelo a chiunque. Lo vedete quel tizio laggiù all'angolo? Su, chiedetelo a lui. Confermerà. Jason ha il cuore buono e sa girare i pancake al volo. Jason dipinge. Adoro le sue opere. Lo definirei un artista. Non fosse perché la laurea in giurisprudenza che lo trattiene quasi tutti i giorni nel suo ufficio in centro dalle 9 alle 5. O quantomeno ce lo tratteneva prima che mi ammalassi. Se cercate un compagno di viaggio superlativo, sempre pronto a partire, Jason è l'uomo che fa per voi. È anche attratto dagli oggetti di piccole dimensioni, cucchiaini d'assaggio, vasetti, la statuina minuscola di una coppia seduta su una panchina che mi ha regalato per ricordarmi l'origine della nostra famiglia. Ecco che tipo di uomo è Jason. Quando era incinta, alla nostra prima ecografia, si è presentato con un mazzo di fiori. È il tipo di uomo sempre in anticipo, che ogni domenica mattina mi sorprende creando facce buffe con gli oggetti che trova vicino alla macchina del caffè, un cucchiaino, una tazza, una banana. È il tipo di uomo che quando esce dal mini market o torna dal benzinaio ti dice «apri la mano». E voilà, ecco una gomma da masticare colorata. Sa che mi piacciono tutti i gusti tranne il bianco. Secondo me adesso ne sapete abbastanza su di lui. E allora su, scorrete a destra. Anzi un attimo, l'ho già detto che è di una bellezza stratosferica. Mi mancherà guardare quella faccia. Se vi sembra che vi abbia descritto un principe e che la nostra relazione sia una fiaba, non siete troppo lontane dalla realtà, tranne che per qualche piccolo screzio, cose che capitano quando si gioca alla famiglia da più di 20 anni, e tranne che per la parte che riguarda il cancro. Nel mio ultimo libro autobiografico, scritto tutto prima della diagnosi, invitavo i lettori a inviarmi suggerimenti per dei tatuaggi uguali da fare in coppia. L'idea era di creare un legame d'inchiostro fra scrittore e lettore. Ero serissima e incoraggiavo i lettori a impegnarsi altrettanto. Mi sono arrivate centinaia di proposte, tra cui qualche settimana dopo la pubblicazione del libro ad agosto, l'idea di Paulette, una bibliotecaria sessantenne di Milwaukee. Proponeva la parola ancora, riallacciandosi a un passaggio del libro in cui raccontavo che ancora era stata la mia prima parola e ora potrebbe pure essere l'ultima. Chi lo sa, staremo a vedere. A settembre Paulette si è messa in macchina e ci siamo incontrate in un salone di tatuaggi a Chicago. Lei si è fatta il suo primo tatuaggio sul polso sinistro e io dietro l'avambraccio sinistro nella grafia di mia figlia. Per me era il secondo. Il primo è una piccola J tatuata sulla caviglia 25 anni fa. Credo possiate immaginare per che cosa sta. Anche a Jason ne ha uno, ma di 3 lettere. A-K-R. Voglio ancora tempo con Jason. Voglio ancora tempo con i miei figli. Voglio ancora tempo per sosseggiare Martini al Green Mill Jazz Club il giovedì sera. Ma non succederà. Probabilmente mi restano solo pochi giorni da passare su questo pianeta. E allora perché sto facendo tutto questo? Sto finendo di scrivere queste righe il giorno di San Valentino e il regalo più autentico, meno scontato in cui posso sperare è che la persona giusta le legga e trovi Jason. e che cominci così un'altra storia d'amore. Lascio intenzionalmente un po' di spiazzo bianco per il nuovo inizio che meritate. Con amore, Amy. Valentine told me who's to go. Feelings he's treasured most of all. The teachers and the football star. It's in his tiny face. It's in his scroll. Vi avevo avvisato in apertura, poco prima di raccontarvi questa storia, che questa era una storia che, se siete emotivamente fragili, poteva colpirvi dritto al cuore. Credo che però storie come queste raccontino una parte scintillante dell'animo umano. Forse in alcuni momenti della nostra vita, che sono quelli più nitidi, dicono che quello in cui siamo vicini alla morte sia esattamente uno di quei momenti. Ecco, in quei momenti forse l'essere umano, quella persona e tutta l'umanità brilla di una luce diversa dal solito. Chi lo sa, forse sono stupidati, non lo so, forse no invece. La storia di Amy Krause Rosenthal è poi proseguita, ahimè, per pochi giorni. Amy Krause era autrice di diversi bestseller che sono stati venduti negli Stati Uniti, scriveva per bambini e per adulti, e lei amava scrivere che eccelleva anche in molti altri campi, compresa la realizzazione di brevi video e la preparazione di diverse insalate. È morta 10 giorni dopo la pubblicazione di questo pezzo, era il 13 di marzo del 2017. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. La storia seriale che vi stiamo raccontando è sì la storia di un omicidio di mafia, di un drammatico e terribile omicidio di mafia avvenuto nel 1946 sulla porta di casa di Nicola Azzotti, che era un uomo di altissima caratura, un sindacalista, un falegname che aveva cercato di combattere per il bene degli agricoltori, per una giusta ripartizione, una equa ripartizione delle terre nella Sicilia del dopoguerra. Quello era il cuore in cui era nato il sentimento mafioso. Ebbene, lui era stato ucciso per quel tentativo, ma stiamo raccontando molto di più. Stiamo raccontando di quello che accade in una famiglia italiana, siciliana nella fattispecie, che rimane senza la figura paterna, quindi di una madre e di due figli, Antonina, che è la protagonista, la narratrice di questa storia, e di suo fratello Pinuccio. A un certo punto, in una situazione come quella, succedono delle cose totalmente inaspettate. Ieri vi abbiamo raccontato di questa giovane ragazza americana che incontra Antonina e la mamma in Sicilia, poi torna negli Stati Uniti, incontra la zia e comincia un affittissimo scambio epistolare tra Antonina, la mamma, e la zia. La zia manda dei vestiti, insomma, adesso sentirete la storia. Ma succede anche un'altra cosa. Succede che arriva un'altra lettera. È una lettera che arriva da una donna americana che viene a conoscenza della storia di Antonina e della sua famiglia e fa alla madre una proposta che la madre tiene segreta, fino a che a un certo punto la racconta ad Antonina per sapere se la scelta che lei ha fatto, senza chiederle nulla, è stata la scelta giusta oppure no. Era passato qualche mese dalla partenza di Francis quando ci furono recapitati 2 pacchi spediti dalla zia Pippina. Contenevano più di quanto una bambina potesse desiderare. C'era tutto, dalle caramelle al tè, ai fermaglini per i capelli, ai pettinatoi civettuoli, ai vestiti con le etichette di varie taglie, perché me l'ha proprio in crescenza, me li ha mandati per provvedere per vario tempo, per anni, dei vestitini eleganti, carini, molto. C'era il tè, c'era il cacao, c'era di tutto, c'erano delle ciabattine, delle pantofoline rosse. C'era di quel ben di Dio che io messo sul tavolo, a mano a mano che avevamo il pacco, li mettevamo sul tavolo e i miei occhi si riempivano di gioia, perché non avevo mai visto un ben di Dio così grande. E poi il secondo pacco, una cosa veramente indescrivibile per me. I numerosi vestitini colorati provenienti dall'America non fecero che velocizzare il mezzo lutto. Cambiavo vestito 2 volte al giorno, soddisfacendo la mia vanità fino ad allora repressa. Ma dall'America arrivò anche una lettera, che allora non vidi né tantomeno lessi. era la lettera di una ricca signora americana, perché Francis non si era fermata soltanto alla zia che aveva provveduto con i pacchi, ma tra le sue amicizie forse conosceva di questa ricca signora senza figli che avrebbe fatto di tutto per adottare una bambina, e poi chissà come ne ha parlato Francis di me, e questa signora ha mandato una lettera alla mamma in cui le chiedeva se era disposta a cedere la figlia, alla quale, cioè cedere me, mi avrebbe assicurato un avvenire sicuramente splendido, certo, un benessere economico. Mi sarei dovuta trasferire in America e sarei diventata sua figlia. Lei mi avrebbe dotato di tutti i suoi averi, ma a una condizione: mai più la mia mamma avrebbe dovuto rivedermi e riabbracciarmi. Ero già adolescente quando venni a conoscenza di quella proposta e sentivo, anche a distanza di tanto tempo, che mamma non era certa di avere agito per il mio bene. Io avevo circa 15-16 anni. La mamma a un certo punto me lo disse, quando si parlava della zia Peppina. Non so che cosa abbia incoraggiato la mamma a parlare di una cosa che lei teneva segreta, aveva tenuto segreta oltre un lustro. Quel giorno aveva quest'aria molto seria, perché voleva indagare, sapere se aveva fatto bene o fatto male, e di questo voleva avere la certezza attraverso la mia espressione, dopo che avevo saputo. Mi disse: «Sai, è arrivata anche una lettera dall'America». Io ero abituata al fatto che di lettere ne arrivavano tante dalla zia. E lei mi dice: «No, è una lettera particolare di una signora molto ricca», e mi spiegò tutto. E io sono rimasta veramente perplessa, perché in quel momento ho pensato che avevo corso un rischio molto, molto grande. Com'era possibile per me lasciare la mamma, lasciare il mio fratellino, allontanarmi da loro per sempre? Una cosa inconcepibile. Quindi ero sovrappensiero, ma la mamma non sapeva, forse fino a quando non mi pronunciassi, non sapeva se ero sovrappensiero, come dirà, che bella occasione che mi ha fatto perdere, oppure. E quindi era anche lei molto pensierosa e grave nel parlare. Ad un certo punto sono scoppiata in un pianto. Sono corsa tra le braccia della mamma, l'ho stretta, ci siamo strette. Abbiamo pianto tanto insieme e lei ha capito che era un pianto da scampato pericolo. E abbiamo pianto e consolato, perché io ero rimasta accanto alla mia mamma, al mio fratellino. E quindi per me questa è stata la ricchezza più grande. Conditional. una storia densissima quella di Antonina Zotti e della sua famiglia. È stata una puntata densissima questa di Linee d'Ombra, amori incondizionati. Vi ricordo che se volete mandarci le vostre storie per far parte di questo programma, per essere parte di questa narrazione che si potrebbe definire collettiva, che stiamo facendo qui a Radio 24 dall'inizio di questa stagione e che proseguirà anche la prossima stagione, bene, mandateci una mail con una vostra storia di un paio di pagine, una storia di confine che racconti un confine che avete varcato, una linea d'ombra oltre la quale siete passati. Linee d'ombra@radio24.it è l'indirizzo per mandarcele. Noi, magari non più in questa stagione, ma a partire dalla prossima, a partire dal 31 di agosto, sicuramente la racconteremo. Linee d'ombra@radio24.it. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Paolo Corleoni, grazie ad Anita Panizza e a Luca Micheli. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo puntuali domani a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!